Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. A Wuhan era stato lanciato un allarme sul secondo terrorista 4 giorni prima dei fatti. Una segnalazione dalla Turchia, ma arrivata troppo tardi, secondo France Info. In Italia si rafforzano i dispositivi di sicurezza. Nuove piste e contatti dell'attentatore di Nizza portano il nostro paese ad una rotta albanese dei terroristi. Rifiuti ancora, problemi a Roma e crisi in Sicilia, mentre Torino attende centinaia di tonnellate in arrivo dall'isola. Il Movimento 5 Stelle non vuole scontro con Chiamparino. Sono 3 i film italiani in concorso al Festival di Venezia che si apre a fine agosto. Questi giorni di piccioni, il documentario Spira Mirabilis e Piuma di Rohan Johnson. Calciomercato, oggi la presentazione di Higuaín a Torino, mentre prosegue la trattativa per Pogba al Manchester United. La vendita di gadget fascisti è equiparabile all'apologia del regime. La regione Emilia-Romagna vuole vietarla. A Predappio, luogo di nascita di Mussolini, i commercianti tremano. In provincia di Venezia, la provocazione di un sindaco, forse un'ordinanza per vietare Pokémon Go. Rischio che i ragazzi si facciano investire. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno per le anticipazioni sulla trasmissione. In apertura dunque torniamo a parlare di terrorismo. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Parliamo, come dicevi tu, dell'attacco in chiesa Wuhan. Come Adel Kermish, anche il secondo attentatore si è scoperto, il suo nome è Abdel Malik Petitjian, aveva tentato di raggiungere la Siria per combattere a fianco dei jihadisti dell'ISIS. La procura di Parigi ha precisato che per questo il 19enne era schedato dal 29 di giugno, il che non coincide, o comunque non è ancora chiaro come debbano queste informazioni convivere con la versione che citavi poco fa tu nei titoli, dicendo, ricordando che la Turchia aveva già segnalato la pericolosità del soggetto nelle scorse settimane a Parigi, proprio perché questo ragazzo aveva tentato di raggiungere la Siria. Comunque sia, il primo killer, ricordiamo, Adel Kermish, anche lui 19 anni, è francese, era agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico dopo essere uscito di prigione a marzo. Anche lui aveva tentato 2 volte di arrivare in Siria. Al momento sappiamo che 3 familiari del secondo, quindi di Petitjian, sono tuttora stati fermati per accertamenti, e c'è anche un altro ragazzo, un minore di 16 anni nato in Algeria, arrestato nelle scorse ore, che dovrebbe essere interrogato nuovamente a breve. Questo perché il fratello di questo ragazzino è partito 1 anno e mezzo fa per la zona iracheno-siriana con i documenti di Adel Kermish, quindi davvero un intreccio che non è facile al momento sciogliere. Per chiudere, Simone, ti do anche le ultime notizie dalla Germania, perché le piste del terrorismo internazionale si intrecciano e si moltiplicano anche le risposte via via che passano i giorni dagli attentati. Le istruzioni per il rifugiato siriano che si è fatto esplodere ad Ansbach all'inizio della domenica scorsa, all'ingresso di un concerto, provenivano dal Medio Oriente, così ha detto il ministro dell'interno bavarese Herrmann, ammettendo però che ancora non si conosce chi fosse il contatto di questo attentatore, il cui atto comunque è stato rivendicato dall'ISIS. E per ora ci fermiamo qui. E grazie a Laura Bettini. Nel frattempo le notizie dall'Italia questa mattina arrivano dal ministro dell'interno Angelino Alfano. Dopo i 3 arresti di ieri, dopo i 2 arresti di ieri di marocchini in provincia di Savona e l'espulsione di un imam che incitava la radicalizzazione in provincia di Vicenza, il ministro dell'interno ha annunciato che ci sono state altre 2 espulsioni per motivi di sicurezza. Alfano ha aggiunto anche che in Italia non esiste un elenco fisso di obiettivi sensibili, e però l'elenco degli obiettivi sensibili è in fase di rimodulazione. E veniamo alla Siria, luogo d'origine di molti di questi terroristi. Assad offre l'amnistia agli oppositori che si arrendono. Amnistia per tutti i ribelli che si arrendono entro 3 mesi. Il presidente siriano Bashar al-Assad ha decretato un'amnistia per tutti i ribelli che deporranno le armi. Lo ha riportato l'agenzia ufficiale Sana'a, mentre i ribelli sono totalmente assediati nella città di Aleppo. Nel frattempo Russia e governo siriano hanno lanciato proprio nella città un'operazione congiunta su larga scala legata agli aiuti umanitari, stabilendo 3 corridoi per i civili e 1 per i militanti che vogliono deporre le armi. Il ministro della difesa russo Sergei Songyu ha sottolineato che il quarto corridoio per i militanti che vogliono la resa è stato attivato a nord di Aleppo, in quanto gli Stati Uniti non hanno fornito i dati sulla separazione tra il fronte al-Nursa e il Free Syrian Army. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di terrorismo, come sapete, ha parlato ieri il Papa al suo arrivo in Polonia. Non ne ha parlato oggi, ma la sua visita prosegue. Farsi umile, piccolo, concreto, lontano dai trionfalismi, dal potere, dalle mormorazioni. Davanti alle migliaia di persone riunite al santuario di Częstochowa per la messa, il Papa rende omaggio all'icona della Madonna Nera e indica lo stile di Dio, che deve diventare quello del cristiano e della Chiesa, lo stile di chi si fa dono concreto per gli altri. Essere attratti dalla potenza, dalla grandezza e dalla visibilità è tragicamente umano ed è una grande tentazione che cerca di insinuarsi ovunque, donarsi agli altri, azzerando le distanze, dimorando nella piccolezza e abitando concretamente la quotidianità. Questo è squisitamente divino. Per Francesco, prima della messa, un piccolo incidente. Il Papa è inciampato e caduto mentre incensava l'altare, ma subito è riuscito a rialzarsi. Per tutti, l'invito ad andare oltre i torti e le ferite del passato, a stare in comunione, senza cedere alla tentazione di isolarsi ed imporsi. Nel pomeriggio, il primo grande abbraccio con i giovani a Cracovia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Problemi per i rifiuti a Roma e in Sicilia. Nella capitale si cerca faticosamente di uscire dall'emergenza rifiuti. È iniziata in Campidoglio la riunione tra l'assessore all'ambiente Paola Muraro e i sindacati per discutere sulle misure da approntare. Il comune però non ha concesso lo streaming richiesto da CGIL, CISL e UIL. Sul tavolo il piano anti-caos dell'AMA, che prevede il ripristino della regolarità con il completo svuotamento delle fosse dei due impianti di Rocca Cencia e di Salaria, che in 36 giorni hanno accumulato 7.000 tonnellate di rifiuti. Muraro promette Roma pulita entro il 20 agosto, assicura che la discarica di Malagrotta non sarà riaperta e attacca il presidente dell'AMA Fortini, accusandolo di non dialogare con il Campidoglio. E intanto emergenze rifiuti anche in Sicilia. Polemica tra i 5 Stelle e il PD sulla loro destinazione. La sindaca Chiara Appendino dice no alla spazzatura proveniente dall'isola, chiudendo di fatto la porta al piano accordato dal presidente della regione Piemonte Chiamparino di usare l'inceneritore di Torino per aiutare la Sicilia a smaltire 15.000 tonnellate, un piano sul quale aveva contato lo stesso governatore siciliano Crocetta. Ci siamo sempre opposti al pendolarismo dei rifiuti, spiega Giorgio Bertola, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Piemonte. La parola finale spetterà alla TO Rifiuti Torinese, che si pronuncerà la prossima settimana. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Il Movimento 5 Stelle in questa battaglia ha anche l'appoggio di una serie di sindaci del Partito Democratico che sono nelle zone intorno all'inceneritore. Ospiteremo uno di loro più avanti nel corso della trasmissione, nel corso del nostro giro per l'Italia. Dovrebbe arrivare oggi la lettera con la quale il Monte dei Paschi illustra alla BCE i suoi piani per l'aumento di capitale e la cessione delle sofferenze, ossia i crediti non più esigibili. E in una giornata negativa per le borse complessivamente, con Milano che cede l'1,7% sul FTSE MIB e l'1,59% sul FTSE All Share, e con molti titoli in negativo, Monte dei Paschi è uno dei pochi titoli positivi, guadagna l'1,14%. In questa giornata la protesta degli obbligazionisti e degli azionisti colpiti dal decreto cosiddetto salvabanche. Ci dovete rimborsare, chi ha sbagliato deve pagare. Il governo aiuta i ladri e penalizza i risparmiatori. Queste alcune delle voci della protesta delle vittime del salvabanche che questa mattina si sono unite davanti a Montecitorio per manifestare tutta la loro rabbia. C'è chi ha perso poche migliaia di euro, ma c'è anche chi rischia di perdere i risparmi di una vita intera, come Letizia Giorgianni, presidente dell'associazione vittime del salvabanche, che dopo essersi vista sottrarre oltre 100.000 euro, tutto quello che avevano accantonato lei e sua madre, ha organizzato questo questo gruppo di protesta, prima sul web e poi dal vivo. Intorno alle 11 la piazza si fa più partecipata e si scaldano gli animi dei risparmiatori traditi dal fallimento delle quattro banche. Ladri, incompetenti, vergogna, ci avete rovinati, e via con fumogeni, cori, fischi e strombazzate. A sostenere la dimostrazione, oltre al saluto fugace di Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il Tesoro ha collocato tutti i 6 miliardi e mezzo di euro di BTP a 5-10 anni con tassi ai minimi storici. Il rendimento medio del quinquennale è sceso per la prima volta a 0,26% dallo 0,33% della asta di giugno, mentre quello del decennale, prima tranche, ha rivisto il minimo di 1,24% da 1,35% precedente. Questo minimo di 1,24% era stato già toccato a marzo scorso. La cronaca: un maresciallo dei carabinieri è stato messo ai domiciliari per rivelazione di segreto di ufficio per aver consegnato atti di indagine riservati all'ex parlamentare del PDL Nicola Cosentino, indagato in stato di libertà per ricettazione. Avrebbe consegnato atti riguardanti presunti rapporti con la camorra dell'ex presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro. Restiamo a Napoli per un'indagine che riguarda i negozi del centro. Maxi sequestro da 4 milioni di euro per il re dell'abbigliamento di lusso a Napoli. I negozi Barbaro in Galleria Umberto. Le prestigiose vetrine della galleria a due passi da Palazzo Reale, che espongono da anni accessori, scarpe ed abiti raffinati. L'accusa per la società è di bancarotta fallimentare. Gli investigatori avrebbero accertato che nel 2015, dopo il fallimento della Barbaro SRL, l'amministratore legale e alcuni suoi familiari avrebbero sottratto denaro e beni dal calcolo fallimentare, e così la società avrebbe accumulato un debito con l'erario pari a 4 milioni di euro. Sono indagati per bancarotta l'amministratore legale Alfredo Barbaro, 83 anni, e 5 suoi familiari. Sono in corso perquisizioni in tutte le attività della Barbaro SRL a Napoli e nelle isole Eolie. I negozi però resteranno aperti e affidati a un amministratore giudiziario. Daniela Abruzzo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Da Napoli a Torino, in tutti i sensi, Carlo Genta, perché oggi ci sarà la presentazione di Higuaín, no? Sì, oggi ci sarà la presentazione ufficiale di Higuaín, che è avvenuta in forma informale ieri, quando Higuaín si è presentato a Torino e ha già parlato da bianconero con un bel sorriso. Questo affare è chiuso, fatto, e ormai fa parte della storia. Adesso si tratta di capire quali saranno le uscite dal fronte bianconero. Ovviamente si continua a parlare di Paul Pogba. L'offerta del Manchester United non si è mossa dai 110 milioni di euro, che però potrebbero soddisfare la dirigenza bianconera. Dunque, nel giro di un paio di giorni potremmo, si dice, vedere Pogba alla corte di Mourinho. In questa estate del calciomercato particolarmente movimentata, bollente e costosa. Decisamente costosa, perché si parla di 110 milioni, no? Se non sbaglio, per Pogba. 110, esatto. 110, la Juventus aveva fissato il cartellino del prezzo a 120 milioni di euro. La prima offerta dello United era 99 o 101, sì, una cifra nell'intorno dei 100. La seconda offerta, quella di 110 milioni di euro, rimane una maxi commissione da pagare al procuratore di Pogba, l'ormai celeberrimo Mino Raiola, e questo è uno degli argomenti di discussione tra i due club. Allora Carlo, ti ritroviamo ovviamente alle 14 in tutti i convocati per parlare di questo e non solamente di questo. Spostiamoci a Venezia. Marta Cagnola, ciao, abbiamo i film italiani in concorso a Venezia? Ebbene sì, come tradizione si inizia a rivelare quali sono i film italiani. Allora, Questi giorni di Giuseppe Piccioni, il ritratto di quattro giovani donne in un momento di svolta delle loro vite. Piuma di Ron Johnson, che nonostante il nome è italianissimo, una giovane coppia alle prese con una gravidanza in attesa. E Spira Mirabilis di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti è un documentario. Posso solo leggerti le note di regia, un film girato in diversi luoghi del mondo, una sinfonia visiva, un inno alla parte migliore degli uomini, un omaggio alla ricerca e alla tensione verso l'immortalità. Altro non possiamo sapere per il momento. In concorso, i titoli in concorso oltre agli italiani sono molto molto interessanti. Terrence Malick con un documentario con Cate Blanchett e Brad Pitt e la musica di Morricone. Il Colossal di Emir Kusturica, On the Milky Road con Monica Bellucci. France di François Ozon, Arrival di Denis Villeneuve. Il 3D d'autore di Wim Wenders, nel cast c'è anche Nick Cave. Konchalovsky con un film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Attesissimo Tom Ford con il suo Nocturnal Animals, e poi Stéphane Brisé, Lav Diaz, Amat Escalante, attesissimo Pablo Larraín con Jackie, con Natalie Portman nei panni della vedova Kennedy nei giorni successivi a Dallas. Due ultime curiosità: si istituzionalizza, che verbo difficile, lo spazio Cinema in Giardino, che sarà dedicato a una programmazione più giovane, eventi di richiamo. Ci saranno Pets, Vita d'animali, il film d'animazione attesissimo, L'estate addosso di Gabriele Muccino e poi Robin Hood, un documentario ideato e diretto da Michele Santoro che parlerà di piccoli boss della camorra. Allora, grazie alla nostra Marta Cagnola per questo aggiornamento. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro consueto giro per l'Italia e inizieremo da Vada, provincia di Livorno. La vicenda ormai la conoscete, è sui giornali di oggi, l'abbiamo raccontata anche nei giornali radio, la vicenda di una bambina che è stata di 18 mesi, che è stata lasciata in auto dalla madre per una forma di amnesia che ormai è riconosciuta clinicamente ed è morta nonostante i tentativi di salvarla. Ebbene, c'è qualcuno che propone di mettere dei sensori nelle macchine, parleremo di questo e poi una storia un po' più leggera. Il sindaco di Predappio, perché la regione Emilia-Romagna vuole vietare come apologia di fascismo la vendita dei gadget che riguardano il Duce e ovviamente i commercianti di Predappio in questo momento stanno tremando. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione dell'attacco ad una chiesa vicino a Roanne. Era stato lanciato un allarme sul secondo terrorista a quanto pare 4 giorni prima dei fatti, mentre in Italia si rafforzano i dispositivi di sicurezza. Abbiamo parlato di rifiuti, dei problemi a Roma e della crisi in Sicilia, torneremo a parlarne più avanti. Abbiamo parlato dei film italiani in concorso a Venezia, di calcio mercato e di un'indagine che a Napoli ha portato alla chiusura di alcuni negozi del centro importanti, alcuni anche in Galleria Umberto I. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e come sempre abbiamo fatto sia la scorsa settimana sia questa settimana e continueremo anche domani nel giorno che tra l'altro l'ultima puntata prima dell'estate di Effetto Giorno, iniziamo il nostro giro per l'Italia occupandoci di violenza sulle donne. Radio 24 sta realizzando un viaggio su questo tema, una campagna anche di sensibilizzazione perché tutto questo non avvenga più. Ogni giorno un appuntamento nel GR delle 7, sul nostro sito www.radio24.it altri approfondimenti. Come sapete, noi ce ne siamo occupando dal nostro particolare punto di vista, occupandoci di quello che avviene ma che non emerge, perché sulle cronache nazionali troviamo i casi di omicidio quando delle donne vengono uccise o dai loro mariti o dai loro compagni o dai loro ex, ma non troviamo quello che c'è sotto, quello che precede tutto questo, le violenze quotidiane. E così dai quotidiani locali peschiamo ogni giorno delle storie. Ecco quelle di oggi. Radio 24, dalla parte delle donne. A Bari, innanzitutto, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 25 anni. La relazione tra lui e la sua fidanzata era finita 9 mesi fa, ma lui non si era rassegnato. Ha programmato la vendetta, l'ha attirata nello stanzino degli attrezzi per le pulizie, perché era un addetto alle pulizie, e l'ha violentata. Appunto, i carabinieri l'hanno fermato. A Portigliola, in provincia di Reggio Calabria, e la storia è una storia di quelle che ci colpiscono ancora di più, perché sono storie che durano a lungo, ma veramente a lungo. Un uomo di 53 anni, disoccupato, pregiudicato, originario proprio di questo posto nella provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e violenza privata nei confronti della moglie. Ma il punto qual è? Il punto è che queste violenze andavano avanti da 25 anni, cioè praticamente quasi dal momento del matrimonio, e lei solamente adesso, solo dopo 25 anni di violenze, si è decisa a denunciare. Una di quelle storie che poteva finire appunto nella cronaca nazionale. A Forlì del Sannio, provincia di Isernia, un uomo di 50 anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e picchiava la moglie anche davanti ai figli. E poi c'è il tema della giustizia. Un tunisino di 28 anni, Bilel Ilahi, è in carcere da venerdì sera per l'omicidio della moglie, Gisella Purpura. Era già stato condannato per aver malmenato la donna dopo averla chiusa in casa per impedirle di uscire. Il 25 maggio 2015 aveva patteggiato 1 anno e 8 mesi con la condizionale per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persone. Siamo nel Novarese, una, come si dice con un termine molto retorico, una tragedia annunciata. Radio 24, dalla parte delle donne. Riprendiamo il nostro giro per l'Italia, o meglio proseguiamo il nostro giro per l'Italia e andiamo a Vada, in provincia di Livorno. La vicenda, come si diceva, la conoscete, ormai ve l'abbiamo raccontata anche all'interno di GR24, è la vicenda di una bambina di 18 mesi che è morta a causa del colpo di calore subito dopo essere rimasta chiusa in auto per almeno 3-4 ore, appunto, a Vada, in provincia di Livorno. Che cosa è successo? È successo che la madre se l'è dimenticata. Un tipo di amnesia che ormai è riconosciuta clinicamente ed è riconosciuta anche a livello internazionale, una forma di amnesia selettiva che scatta in determinati casi e in determinate situazioni di stress. C'è qualcuno che sta provando a fare qualcosa perché tutto questo non avvenga più. Questa persona è Andrea Albanese, che ha vissuto la stessa tragedia. Ha vissuto la stessa tragedia 3 anni fa, la morte del figlio. È stato lui a dimenticarselo in auto, il figlio, che si chiamava Luca. Andrea Albanese ha deciso, forse anche giustamente a questo punto, di non intervenire più, forse non se la sente, non lo sappiamo, e però ha fondato un'associazione. Noi siamo con Mirko Damasco, che è membro del gruppo Mai Più Morti Come Luca, fondato proprio da Andrea Albanese. Buongiorno Damasco, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, a che cosa state pensando e che cosa proponete perché queste cose non avvengano più? Bella domanda. Allora, io, oltre che essere membro e appunto conoscere Andrea, che ringraziamo tutti per il suo impegno, no? Faccio parte di Salvamento Academy, che da anni lotta per diffondere queste iniziative. In realtà noi ne parliamo esattamente da quando abbiamo conosciuto la storia di Andrea, perché prima era un tema un po' così, che si era sentito, ma non così insomma da vicino. Quindi abbiamo studiato, ci siamo confrontati ovviamente con i medici, con gli esperti, e ovviamente, come oggi purtroppo drammaticamente ancora scopriamo che è una cosa che può accadere, e può accadere proprio a tutti, nonostante ovviamente un genitore faccia fatica ad accettare questa cosa. Cioè, può accadere anche a me, sì, purtroppo sì. Quindi noi abbiamo due armi, quello che sta cercando di fare il gruppo di Andrea stesso e tutti quelli che si stanno impegnando su questo fronte. La prima arma è la sensibilizzazione, sul tema deve portare ad un'azione, e l'azione è la prevenzione, cioè far capire che se io ho un bambino, soprattutto piccolo, piccolissimo, perché questo è il problema, che il bambino si addormenta intanto che io sono in macchina, e quindi poi sostanzialmente il mio cervello fa quello che avete bene raccontato, e quindi io proprio non è che me lo dimentico, è che proprio non sono lì, cioè ho un falso ricordo o succede qualcosa, per cui per me io quell'azione l'ho fatta, lo dovevo portare all'asilo, l'ho fatto, lo dovevo portare dai nonni, l'ho fatto, e sì, vado dritto. Addirittura, se non erro, la madre di questo caso, il caso di Vada, ha raccontato che proprio aveva la percezione di averla portata all'asilo e al campus estivo, questo se lo ricordava nitidamente, in realtà non era mai successo, cioè, o meglio era successo il giorno prima. Assolutamente, tutti raccontano questa cosa, tutti, cioè vedono addirittura a volte la scena in cui lasciano il bambino dove secondo loro appunto doveva essere lasciato. Quindi il problema è questo, noi sappiamo che accade perché allora Damasco, però io vorrei chiederle molto concretamente, secondo lei che cosa si può fare? Ecco, appunto, prima cosa, riconoscere che a me può accadere. Se riconosco che a me può accadere, perché non sono una persona infallibile, perché la notte dormo poco, perché mille fattori, mi proteggo. E allora ho delle armi di protezione pratiche, banali, che però devo sapere che esistono. Cioè, per esempio, metto tutti gli oggetti che ho in mano, tutto quello che mi può servire durante la giornata, questa è una banale abitudine, di fianco al seggiolino di mio figlio. quindi la borsa del lavoro, le chiavi di casa, il cellulare, eccetera, eccetera. Questo non vuol dire, come alcuni illuminati ci stanno dicendo su Facebook, che noi diamo più importanza al cellulare che a un bambino, ma vuol dire che quelle che io mi dimentico, certo, scendo dalla macchina, quella cosa prima o poi mi serve e faccio tornare, tra virgolette, alla realtà il mio cervello. Quindi questa è un'arma di prevenzione gratuita, facile, che se io so che c'è questo problema posso fare, non ci costa niente farlo, ok? Poi ovviamente c'è la tecnologia che può venirci in supporto, ci sono in commercio diversi dispositivi cosiddetti anti-abbandono che magari, per esempio, suonano quando il motore della macchina viene spento, il seggiolino rimane pieno, quindi cioè col peso del bambino, sì, quindi ci aiutano, e a questo si associa una delle più grandi battaglie che sta portando avanti il gruppo, che stiamo portando avanti anche noi, cioè la famosa petizione, cioè chiedere la legge. Perché oltre alla sensibilizzazione, oltre alla prevenzione, ma purtroppo da quello che leggiamo dai commenti su questa storia, che sicuramente avrete visto anche voi, siamo molto lontani da capire che questo è un vero problema e va affrontato. Quindi insieme a questo ci vuole una legge. Cioè, e quello che non capiamo è, sì, cosa diavolo ci voglia. Guardi, Damasco, le dico, anche dagli SMS che mi stanno arrivando in questi momenti dagli ascoltatori, sì, qualcuno che mi dice, per esempio, se hai un bambino non lo lasci in macchina, esatto, non costa nulla neppure girarsi una volta in più e guardare il seggiolino una volta in più. Non capisco che questo è proprio un momento nel quale è come se il cervello si staccasse completamente, cioè non ci pensi proprio. Ecco, questo, esatto, questo è lo snodo. Sì, sì. No, quello che voglio dire a queste reazioni che le stanno scrivendo adesso in trasmissione è che non c'entra nulla questo fatto con l'essere un bravo genitore o no. Non c'entra nulla. Qui stiamo parlando di una cosa indipendente dalla propria volontà. Io ho due figli, è chiaro che razionalmente dico io e i miei, sì, figli, ma lo diceva anche questa mamma 100%, lo diceva anche Andrea 100%. Il problema è che in quel momento lì il mio cervello si spegne. Si spegne e completamente. Se io so che questa cosa può accadere, e la medicina la spiega, quindi non è fantascienza, devo proteggermi. Sì. Ultima domanda, Damasco, e le chiedo di essere veramente brevissimo. Sì. Mi dica in un punto che cosa deve contenere questa legge secondo lei? Che tutte le macchine che escono dal concessionario abbiano di serie un dispositivo antiabbandono, oppure che sia obbligatorio, come io sono obbligato a mettere la cintura in macchina, sono obbligato ad avere un dispositivo antiabbandono in macchina. Punto. La ringrazio, grazie a Mirko Damasco, membro del gruppo Mai Più Morti Come Luca, fondato appunto da Andrea Albanese, padre di Luca Albanese, un bimbo di 2 anni morto in questo stesso modo 3 anni fa. Passiamo ad un argomento decisamente più leggero e ci spostiamo. Il prossimo punto sulla mappa che trovate sul nostro sito www.radio24.it, lo mettiamo a predappio. Perché è partita un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna, una risoluzione da parte del Consiglio regionale, che chiede di estendere il reato di apologia del fascismo anche alla vendita e diffusione di gadget con immagini del regime. Giorgio Frassineti, sindaco di Predappio, luogo natale di Benito Mussolini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, come l'ha presa questa cosa? Perché immagino che, insomma, un po' di gadget dalle parti vostre si vendano. Guardi, 20 anni fa è stata data la possibilità di aprire 3 negozi di souvenir, perché così si chiamano, a Predappio. Oggi si chiede di chiuderli, quindi non vendere queste cose. Mai una volta che si affronta poi il problema del fascismo, di cosa è stato il fascismo. Cioè, non è delegando la narrazione becera a questi negoziati che vendono, può immaginarsi, manganelli, maglietti con la scritta, oppure negando il fatto che possano circolare questi oggetti, che noi ci liberiamo dal fatto di dover per forza fare i conti con quel periodo storico. Mai si accompagna un investimento culturale verso la storia. Sempre negare, oppure in maniera così lasca, dire sì, potete aprire questi negozi. Sicuramente l'immagine di Predappio è stata deteriorata da questi negozianti, che poi hanno portato alle manifestazioni che registriamo 3 volte l'anno, l'ultima sarà domenica, la data della nascita di Mussolini. E noi siamo qui a guardare... Dove arriva chiunque, immagino, no? Sì. Fascisti da tutta Italia. Da tutta Italia, ma nessuno di Predappio. Predappio è governato dal dopoguerra da sindaci di sinistra, no, questa notizia. E dico anche che per esempio una partita IVA oggi 10 abitanti, so come dire, e i negozi sono tre famiglie, quindi il danno dell'economia per il paese è pressoché nullo. In termini di immagine sicuramente sì, sono d'accordo, io non ho partecipato al percorso del sul fatto che si chieda questa risoluzione, io posso anche essere favorevole, però è la prima parte del sì, perché la seconda parte deve essere quella di fare importanti investimenti e ridare la dignità a Predappio e, voglio dire, creare quel centro di documentazione che da anni mi sto battendo per costruire. Sì, è vero, che perché lei vuole fare un centro di documentazione e c'è una certa opposizione, no? Perché qualcuno dice no, perché rischia di essere una sorta di celebrazione del fascismo. Peggio di così dove vogliamo andare? Ci sono i negozi di souvenir, io propongo un centro di documentazione, scusate, a sto punto, no? Dice chiudiamoli, credo, pure, però facciamo il centro di documentazione. Credo davvero che quando si gioca con la paura, la partita si perde. Allora, se noi abbiamo ancora la coda di paglia, che non riusciamo a dire quello che dobbiamo dire, cioè che il fascismo ebbe un grande consenso popolare in quei momenti. La marcia su Roma fu un gesto violento, ma il re dette l'incarico a Mussolini per fare un governo di coalizione, c'erano cinque partiti, anche i repubblicani. Sì. Poi studiare che cosa è successo non è utile solo a noi, è utile all'Europa. Noi stiamo assistendo in Europa a una ventata, a un'ondata di nazionalismi, di partiti che si rifanno a delle ideologie che pensavamo scomparse e invece affiorano per l'incapacità di fare una politica seria nei grandi fenomeni che stiamo vivendo, prima fra tutto l'immigrazione. E l'economia. E poi, Frassinetti, mi dica la verità, no, immagino a Predappio non ne possiate più di essere solamente il paese di paese natale di Mussolini. L'ufficio del sindaco di Predappio è la stanza dove viveva l'adolescente Mussolini. Io non ne posso veramente. Tutta la mia vita è tutti i giorni devo parlare di questa cosa. Di questa cosa. Però, qua è. Io voglio essere utile, Predappio deve essere utile, deve essere un punto della topografia europea che tutta quanta insieme restituisce il senso e il significato di un secolo durissimo e terribile che è stato il Novecento, che nasce a Parigi con la Belle Époque, no? E sarà un secolo dolce, femmina, no? Faremo l'amore tutti i giorni e poi due guerre mondiali, la cortina di ferro, i totalitarismi, fino ad arrivare alla nostra vera coscienza dell'Europa che si chiama Srebrenica e Sarajevo. Noi dobbiamo per forza affrontare questa narrazione e il periodo fascista in Italia c'è stato e non possiamo ed è una parte di questa narrazione. La ringrazio. Grazie a Giorgio Frassinetti, sindaco di Predappio. Le auguro buona giornata. Ci fermiamo. C'è la borsa e poi nella seconda parte della trasmissione proseguiremo il nostro giro per l'Italia, a Torino per parlare dei rifiuti in arrivo dalla Sicilia e poi a Marcon, alle spalle di Venezia, dove il sindaco ha detto sto pensando ad un'ordinanza per vietare Pokémon Go perché i ragazzi rischiano di finire sotto le macchine. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli, ci sono innanzitutto le parole di Angela Merkel arrivate in questi minuti. Gli attentati compiuti da rifugiati in Germania non cambiano la politica tedesca sull'asilo. Siamo un paese forte e vinceremo, ha detto Merkel. Intanto altre notizie arrivano da Rouen, dove era stato lanciato un allarme sul secondo terrorista dei due che hanno ucciso un prete in chiesa 4 giorni prima dei fatti, una segnalazione dalla Turchia ma arrivata troppo tardi, secondo France Info. In Italia intanto si rafforzano i dispositivi di sicurezza. I rifiuti, ancora problemi ci sono a Roma e crisi in Sicilia, mentre Torino attende centinaia di tonnellate in arrivo dall'isola. Parla Renzi, bisogna dare una nuova direzione di marcia all'Europa, l'austerity è una follia. Alla borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, il prossimo punto sulla mappa, mappa che trovate sul sito www.radio24.it, lo mettiamo a Torino, dove è battaglia tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico in regione, ossia in Consiglio regionale, per l'arrivo dei rifiuti dalla Sicilia che dovrebbero essere portati nell'inceneritore di Torino. Chiamparino ha dato l'ok, il Movimento 5 Stelle non è d'accordo, il Comune si vuole mettere di traverso, ma Comune di Torino, ma da questo punto di vista c'entra poco. Ad affiancare il Movimento 5 Stelle in questa battaglia ci sono però altri sindaci del Partito Democratico, come Maurizio Piazza, che è il sindaco di Beinasco, siamo ad 800 metri dall'inceneritore. Sindaco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, perché non volete i rifiuti siciliani? Cioè, perché ha un po', no, ha un po' quella cosa, vogliamo solo i rifiuti di casa nostra, è così o no? Ma innanzitutto bisognerebbe capire che tipo di rifiuto arriva, perché noi siamo un territorio con diversi comuni, con delle percentuali di raccolta differenziate di un certo tipo. Quando ci chiedono di essere responsabili e quindi arrivare ad avere un impianto di un certo tipo, eccetera, noi chiediamo anche delle garanzie su che cosa si bruciasse. Certo. E questo... mi dica che percentuali avete di raccolta differenziata? Ma abbiamo dei consorzi che vanno dal 60 al 67-70%. Ok, lei dice ci arrivano questi rifiuti dalla Sicilia, ma non sappiamo come, se sono differenziati, come sono fatti, se arriva tutto insieme. Sì, sicuramente le percentuali di differenziata non mi pare che siano ragguardevoli, ma poi c'è un altro aspetto ancora, nel senso che la logica di avere un impianto su Torino, scelta giusta per non entrare in quell'emergenza dove si trovano altre realtà, è una logica a servizio, diciamo così, della comunità, parlo della provincia di Torino, e nel momento in cui ha avuto l'ampliamento con lo sblocca Italia, molto probabilmente può avere un ragionamento a livello piemontese, ma chiaramente con delle garanzie in termini soprattutto di emissive, ecco. Quindi di che cosa ci va dentro, questo sì. Per noi è fondamentale. Certo, è il punto fondamentale, cioè lei dice non è che quasi contesta l'inceneritore, perché c'è e fa il suo lavoro e serve per la città e probabilmente per un pezzo ampio del Piemonte, l'importante è che le cose vengano fatte come Dio comanda. Ma voglio dire, noi abbiamo accettato, si è accettato anche a malincuore, tra virgolette, la realizzazione di questo impianto, a fronte dell'eliminazione delle discariche, eccetera. Ma la nostra realtà, il nostro territorio, dei comuni interessati, è gravato da un impatto ambientale di un certo tipo, dovuto allo sviluppo negli anni passati, via dicendo. E nel momento in cui la regione stessa, con una serie di impegni in consiglio regionale, si è assunta, diciamo così, la volontà di intervenire, ad esempio eliminando alcuni fattori di impatto ambientale presenti che dovevano essere eliminati secondo dei patti, e questi non sono in qualche maniera, diciamo così, stati rispettati, è chiaro che noi cerchiamo in qualche maniera di tutelarci nel limite del possibile. Non ci chiedono di essere responsabili, noi responsabili lo siamo e abbiamo anche sì. Una visione come amministratore a livello generale, e quindi il principio sì. Di solidarietà sì. E tutto quello che vogliamo. Dopodiché noi la responsabilità l'abbiamo messa nel ricevere, diciamo così, l'impianto. Oggi però dobbiamo avere delle garanzie che quell'impianto serva, diciamo, in una certa maniera e venga utilizzato in una certa maniera. E venga utilizzato in una certa maniera. Non può essere sì. Assolutamente utilizzato in una logica nazionale, cioè utilizzato per risolvere le questioni di emergenze di altre regioni o di altre città o che cos'altro. Lo facciamo sì. Già con la regione Liguria. Dice basta così. La ringrazio. Grazie Maurizio Piazza, sindaco di Beinasco. Beh, visto che siamo sui rifiuti e siamo, come dire, in zona della storia balneare o della storia estiva che vi raccontiamo ogni giorno, sentiamoci un po' il sindaco di Bari, De Caro, che ha trovato sono stati trovati dei sacchi di immondizia lasciati da dei ristoratori, e ha messo un video su internet dicendogli questo: ci fate schifo perché fate affari la sera e la mattina abbandonate i rifiuti sugli stessi marciapiedi che poi la sera sono frequentati dai vostri clienti. Niente male il sindaco De Caro di Bari. Andrea Follini invece è sindaco di Marcon, provincia di Venezia, alle spalle di Venezia. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Salito in auge, salito alle cronache nazionali per aver detto sto pensando ad un'ordinanza per vietare Pokémon Go. ma come mai? È simpatica sta cosa. Io ho pubblicato nella mia pagina Facebook una evidente provocazione dopo l'ennesima scena a cui ho assistito, dove dei ragazzini rischiavano di essere investiti nella pista ciclabile da un ciclista anziano perché erano così presi da questo gioco da non accorgersi di cosa c'era intorno. Non era il ciclista che giocava a Pokémon Go. No, erano i ragazzini. E devo dire che insomma la preoccupazione, al di là della battuta, di tutto ciò che si può dire intorno a questo, ci sono due aspetti fondamentali da osservare, secondo me. Uno dal punto di vista sociologico, ma soprattutto l'altro dal punto di vista della sicurezza dei ragazzi. Questa è un'attenzione che dovremmo avere. È una buttata, non la fa l'ordinanza. No. Anche perché come si fa a vietare Pokémon Go? Ci scrive qualche ascoltatore, tra l'altro, giustamente, dice: che senso ha? Perché alla fine tanto stanno con gli occhi incollati sul cellulare lo stesso, cioè che sia Pokémon Go o sia WhatsApp, come dire, poco, o Snapchat, sì, ma, poco cambia. Sì, certo, no, beh, secondo me cambia, perché il gioco prevede proprio una dinamicità della persona che vi sta giocando. Quindi invita a rincorrere questi Pokémon da andare a cacciare, diverso dalla scrittura fatta sull'SMS o sul WhatsApp. Pericolosi entrambi, non vi è dubbio su questo. Ecco, quello che io volevo stimolare, e almeno per quanto riguarda la questione locale sicuramente c'è stata, è una discussione, un'analisi di questa cosa. Credo sia giusto interrogarsi anche su questo. Allora, la ringrazio, grazie ad Andrea Follini, sindaco di Marcon, per essere stato con noi. Appello alla Nintendo: mettete i Pokémon solamente sui marciapiedi. Traffico, Platero, ci risentiamo tra poco.